Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Ieri dunque il vertice, noi oggi cominciamo dal bilancio dell'incontro, lo ricordo, un vertice straordinario dedicato essenzialmente all'evasione fiscale. Sentiamo. Il classico compromesso all'europea suggella un vertice che porta a casa un mezzo potenziale successo nella lotta al mostro dell'evasione fiscale e degli evasori fiscali. Su una cosa i 27 leader appaiono d'accordo: rivedere entro fine anno la direttiva sulla tassazione dei risparmi, così da introdurre una prima piattaforma di scambio di informazioni legate ai conti bancari. A raffreddare i trionfalismi ci ha pensato il presidente della Commissione Barroso, che ha ricordato come nelle conclusioni del summit avrebbe preferito leggere in modo più esplicito la volontà dei leader di sancire lo scambio automatico in chiave anti-evasione. Austria e Lussemburgo avrebbero dunque alla fine ceduto, ma l'impressione è che si tratti di aperture ancora parziali, in attesa che l'Europa concluda negoziati simili con gli altri paradisi fiscali, in primis la Svizzera. Soddisfatto del risultato, il premier Enrico Letta alla sua prima assoluta a Bruxelles. Mi sembra che l'accordo finale sia un buon accordo. Il Consiglio ha anche discusso della questione disoccupazione giovanile. Il miglior risultato Letta lo porta a casa proprio sul dossier disoccupazione giovanile. Il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy lo ha messo in cima all'agenda del vertice di giugno, summit su cui convergerà anche una proposta congiunta franco-tedesca su crescita e occupazione, e che sarà seguito da un consiglio straordinario dei ministri del lavoro a Berlino il 3 luglio, dedicato proprio ai giovani senza lavoro. Ieri infine a Bruxelles si è parlato pure di energia, in primo piano la diversificazione delle fonti con il crescente interesse per il gas di scisto, insieme all'obiettivo 2015, anno in cui saranno attuate le interconnessioni delle reti. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore, Strasburgo. La casa colpita dalla crisi, il bene rifugio per eccellenza, diventa un fardello che almeno un quarto delle famiglie europee fatica a sopportare. Affitto e acquisto si fanno sempre più difficili, i mutui sono cari, non disponibili, e poi c'è il tema energetico. La bolletta è sempre più pesante e secondo un'indagine di Eurostat l'italiano medio, noi dunque, siamo quelli che paghiamo la bolletta energetica più salata d'Europa. Edilizia sociale, una parola quasi dimenticata in gran parte del nostro paese. Ora un passaggio importante riguarda dei finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro in arrivo dall'Europa. L'abbiamo chiesto ad Andrea Cozzolino, eurodeputato, membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali. È noto che il trattato ci impedisce di avere una politica con una forte base legislativa sulla casa e sui temi relativi alla questione urbana. Tuttavia, nella riprogrammazione delle risorse comunitarie 2014-2020, sono risorse ingenti, più di 32 miliardi che dovrebbero affluire verso l'Italia, sia del nord, sia del centro che soprattutto del sud. Noi abbiamo posto una condizione e abbiamo ottenuto un risultato. La condizione è che almeno il 5% di queste risorse siano destinati direttamente ai comuni per mettere mano a programmi di rigenerazione urbana senza consumare più suolo, ma abbattendo e ricostruendo, e quindi dando un nuovo valore anche alla casa, offrendo un patrimonio edilizio che sia più sicuro, che sappia rispondere positivamente alla sfida dei cambiamenti climatici e quindi alla necessità di ridurre il consumo energetico, e contemporaneamente siano appartenenti, diciamo, a case e quartieri sostenibili dal punto di vista sociale, cioè che diano risposta, diciamo, al dramma che abbiamo in questi mesi di tante famiglie, giovani coppie che sono impossibilitate da poter utilizzare questo bene. Ancora un passo avanti tra Belgrado e Pristina, che si sono accordate ieri su un piano di attuazione pratica dell'intesa storica, si può ben dire quella del 19 aprile scorso, un accordo raggiunto con la mediazione dell'UE. I premier, il serbo Ivica Dačić e il kosovaro albanese Hasim Tači, hanno annunciato un'intesa in linea di principio sul testo. E ora sentiamo il nostro quotidiano consiglio in arrivo da Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi presento la rassegna Conversazioni d'Europa, organizzata dal centro Europe Direct Emilia Romagna e dallo sportello di informazione europea presso il comune di Bologna, in programma fino al 31 maggio. Incontri, dibattiti e anche un cineforum gratuito a tema europeo sono solo alcune delle proposte della rassegna. L'appuntamento di domani è alle 18 a Palazzo da Curzio, dove si parlerà dello stato dell'Unione tra crisi economica, democrazia e giovani generazioni. posizioni. Tra i relatori, Salvatore Caronne e Vittorio Prodi, deputati al Parlamento europeo. Per conoscere gli altri appuntamenti, www.comune.bologna.it. E naturalmente, come sempre, www.radio24.it. Vi ricordo che Federico Taddia lo trovate e lo ritrovate anche sabato tra le 10 e le 11 nell'altra Europa. Con questo è tutto, un saluto in regia da Filippo Aureggi, Gigi Donelli al microfono, e naturalmente Europa 24 torna domani poco dopo le 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.